Linee d'ombra di Matteo Caccia. Lui scrive da Fossoli a mio nonno, raccontandogli che non era sicuro che era stato Luciano a tradirlo, ma avrebbe fatto quello che ha fatto. All'amico Umberto si rivolge per essere aiutato ad espatriare. Luciano gli fissa un appuntamento, ma al posto dell'amico trova gli agenti dell'SS che lo arrestano e lo portano in via Tasso. Storie di amici infami e di fan spietati in una puntata che si intitola Io mi fidavo. Come mai tanta autocommiserazione? Stai cercando delle scuse per aver ucciso quei tre uomini? Non necessariamente. Sono tutti così orrendi oggigiorno. Tu sei orrendo, Marley. Io? Orrendo? In che modo sarei stato orrendo? Mandando il mio video. Invitandomi al tuo show. Volevi solamente prenderti gioco di me. Sei come tutti gli altri. Tu non sai un bel niente di me, amico. Guarda cosa ha portato quello che hai fatto. Cosa ha causato. Ci sono delle sommosse là fuori. Due poliziotti sono in condizioni critiche. E tu ridi. Tu ridi. Qualcuno è stato ucciso oggi a causa di quello che tu hai fatto. Lo so. Siamo al Murray Franklin Show. Quello che parla è da una parte Joker, o meglio Joaquin Phoenix. Dall'altra parte è Murray Franklin, appunto, cioè Robert De Niro. È l'ultimo film su Joker, quello che ha avuto un successo planetario, giustamente planetario, per come è stato interpretato soprattutto da Joaquin Phoenix. E qui è la scena in cui lui, che è un grandissimo fan di Murray Franklin, cioè di questo anchorman televisivo americano, decide di fare un gesto, insomma, inconsulto direi. La puntata si intitola Io mi fidavo. Abbiamo aperto con questo pezzo di Joker perché vi racconteremo delle storie legate a un evento. Oggi è un anniversario è una data molto particolare. Sono 40 anni dalla morte di John Lennon, forse la più grande star della musica degli ultimi anni. Viene ucciso a New York davanti a casa sua da un giovane fan, Mark Chapman, che gli spara 5 colpi e lo finisce, sostanzialmente lo fredda lì sul colpo. Era l'8 dicembre del 1980, oggi è l'8 di dicembre del 2020 e vi racconteremo nella seconda parte di puntata la storia di quest'uomo, non quella di John Lennon, che immagino conosciate e che insomma, se non conoscete, ascoltatevi la sua musica, è molto più facile, ma vi racconteremo la storia di Mark Chapman, che ogni 2 anni chiede la grazia e ogni 2 anni, grazie anche al no di Yoko Ono, gli viene negata. Prima però un'altra storia che sembra arrivare da un'altra epoca. Arriva sì da un'altra epoca, ma è un'epoca che veramente abbiamo dietro le spalle, perché parliamo del periodo in cui in Italia essere ebreo era un problema, e soprattutto se avevi un amico infame come il protagonista della storia che vi racconteremo, la storia di Umberto. Stiamo parlando di quegli anni durante il fascismo, in cui vengono promulgate le leggi razziali. Umberto è un giovane uomo che si fida di un amico a cui chiede: mi dai una mano a scappare, mi dai una mano ad andare in Svizzera? E quello che succede ve lo raccontiamo adesso. Benvenuti a Linee d'ombra. Era il febbraio del 1944, Umberto aveva 26 anni, era bellissimo e paraculo come solo i giovani romani sanno esserlo. Umberto è il primo di 5 figli di una famiglia ebrea, proprietaria di un negozio di abbigliamento in via Alessandria, a Roma. Le leggi razziali del 38 promulgate dal fascismo, l'occupazione di Roma dei tedeschi, i raid al ghetto di Roma costringono la famiglia a dividersi per evitare le persecuzioni. Umberto decide di fuggire in Svizzera. Il fratello Leonardo, di un anno più piccolo, viveva nascosto con la moglie Gemma in casa della suocera Anita in via Reggio Emilia. Da poco avevano avuto un figlio, Settimio, detto il Baroncino, che allora aveva 1 anno e mezzo. Intorno agli anni 30 Umberto frequenta le elementari all'Istituto Pestolazzi in via Montebello. Tra i suoi compagni di classe c'è Luciano. I due giovani diventano ben presto amici e, finiti gli studi in comune, continuano a frequentarsi anche perché si trovano ad abitare nello stesso quartiere. Umberto era il classico, secondo me, giovane romano, ebreo, paraculo, come lo era probabilmente mio nonno a 26 anni. Gli piaceva vivere, gli piaceva andare a giocare, a chiacchierare. Era il re del bar dove si giocava a carte, per cui lo immaginavo proprio così anche a 25 anni. E tra l'altro mia nonna, la moglie di mio nonno, ovviamente era innamorata di tutti e due i fratelli, perché erano due fratelli appunto guasconi, divertenti, e non so poi come è andata bene, perché lei ha sposato mio nonno Nando invece che il fratello Umberto. Però insomma, cioè, mia madre vi racconta che c'era questa cosa qui, insomma. A lui Umberto si rivolge per essere aiutato ad espatriare. Luciano gli fissa un appuntamento all'incrocio tra Viale Manzoni e Via Emanuele Filiberto. Pieno di speranza, Umberto si reca puntualmente all'incontro, ma al posto dell'amico trova gli agenti dell'SS che lo arrestano e lo portano in via Tasso. Da quel giorno inizia l'odissea di Umberto. Da via Tasso finisce al carcere di Regina Coeli, dove riesce a scrivere una lettera alla suocera che, non essendo ebrea, non correva rischi. Gemma, la cognata, corre al carcere, ma è già troppo tardi. Umberto era stato trasferito così, senza soldi, con i vestiti che aveva ancora indosso al momento dell'arresto. Mandato a Fossoli, vicino Carpi, provincia di Modena, dove la Repubblica di Salò aveva allestito un campo di concentramento. Da Fossoli Umberto scrive a Roma ad amici e parenti per far sapere dove si trova e per chiedere, con molta vergogna, soldi, vestiti e cibo. Nelle lettere, oltre a scusarsi per le richieste, cerca di rassicurare tutti sulla sua condizione di salute e di morale. Conclude sempre con un abbraccio al baroncino. Solo il 19 marzo riesce a ricevere la prima lettera della famiglia, che da allora cerca di mandargli anche soldi attraverso dei vaglia postali, 500 lire per volta, e pacchi di vestiti e di cibo, tutte cose che però non gli arriveranno mai. Da Fossoli Umberto scrive: «La vita scorre tranquillamente, forse anche troppo, ma meglio così che altrimenti». Il 3 aprile scrive che gli hanno appena comunicato che deve partire per ignota destinazione, e in quella lettera cerca di nuovo di tranquillizzare la famiglia. «Non preoccupatevi per me, che non è il caso. Cercate di stare bene voi tutti, che questo pensiero è quello che mi fa stare più tranquillo». Le ultime notizie sono 5 righe scritte a matita di fretta su un fogliettino con data 5 aprile 1944. Cara Gemma, ti scrivo nell'ora della partenza. Scrivo nell'ora della partenza. Spero che questa mia ti pervenga. Tanti baci a tutti voi e niente paura. Umberto. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Da quel giorno non si è più avuta notizia di lui. Luciano, invece, che di cognome fa Luberti, ha fatto carriera. Luciano Luberti durante l'occupazione si è meritato il soprannome di Boia di Albenga. Con la liberazione è stato condannato a morte, ma la condanna è stata tramutata in ergastolo e poi con l'amnistia a 7 anni di carcere militare. Uscito dal carcere è stato accusato di aver ospitato gli esecutori della strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre del 69 a Milano, e degli attentati dinamitardi che nello stesso giorno erano stati compiuti a Roma. La sua compagna, Carla Gruber, che aveva deciso di confessare, è stata uccisa e il suo cadavere tenuto nascosto per 3 mesi. Sì, no, Luciano Luberti, noi l'abbiamo avuto notizia solo dai giornali, dalle cronistorie degli anni 50-60, e poi ultimamente in realtà ci sono uscite alcune notizie sulla figlia, perché abbiamo fatto un incontro ultimamente in una bottega del commercio Eco in cui ci hanno chiesto: ah, ma tu la incontreresti la figlia di Luberti se te lo chiedesse? E io lì sono rimasto un po' titubante, perché in realtà non ho nessuna voglia di incontrarla, almeno di essere proattivo in questo incontro, anche perché non c'entriamo niente né io né lei con questa storia, per cui non capisco perché ci dovremmo incontrare, non vorrei che servisse a fare una specie di riconciliazione tardiva di una cosa che forse non è riconciliabile. Luciano Luberti, militante del Fronte Nazionale, viene ritenuto incapace di intendere e di volere dal criminologo Aldo Semerari, morto decapitato e noto per le sue perizie psichiatriche a fascisti e malavitosi della banda della Magliana. Condannato all'internamento per 2 anni nel manicomio di Aversa, fa perdere le sue tracce e muore di vecchiaia e in libertà il 10 dicembre del 2002. Il fratello di Umberto, Leonardo, ha gestito il negozio di famiglia in via Alessandria insieme al fratello Angelo e alla moglie Gemma. È mancato nell'84 e gli eredi sono diventati i loro figli, tra cui Settimio, il baroncino. Nel 1999 hanno bisogno, per motivi fiscali, di sapere ufficialmente che fine avesse fatto Umberto. E dopo qualche ricerca, da Milano, tramite la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, arriva il documento che certifica che Umberto è arrivato il 15 aprile del 44 ad Auschwitz e lì marchiato con il numero 180110. È morto il 28 agosto del 44. Umberto, di cognome, faceva Spizzichino, e il baroncino nient'altri era che mio padre. If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window and follow your memory. Upstream to the meadow in the mountain where we counted every falling star. I believe the light that shines on you will shine on you forever. And though I can't guarantee there's nothing scary hiding under your bed, I'm gonna stand guard like a postcard of a golden retriever, and never leave till I leave you with a sweet dream in your head. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you. Quando raccontiamo di linee d'ombra e quando chiediamo storie legate a linee d'ombra, ogni tanto lo dico, lo ricordo, però in particolare in casi come questi va fatto, non ci aspettiamo storie come queste, ci aspettiamo storie che magari sono storie segnanti, che hanno tracciato un confine nella vita delle persone, piccolo o grande che sia, ma che indicano un prima o un dopo. Storie come queste, storia come quella di Lorenzo e del suo zio, prozio, diciamo così, Umberto e di tutta la sua famiglia, sono molto di più. Sono delle linee d'ombra che riguardano non solo Lorenzo nella fattispecie, non solo la loro famiglia, ma direi un intero paese, e che è il nostro paese, che è l'Italia di quegli anni, e devo dire in alcuni casi l'Italia ancora di oggi. Pronto, ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao, buongiorno Matteo. Come stai? Bene, molto bene, grazie. Senti, la tua storia è una storia incredibile, perché ci racconta non solo una storia familiare, ci racconta molto di più. Io devo dirti la verità, la figura di Luciano Luberti io non la conoscevo, ed è una figura tetra, terrificante, è veramente l'impersonificazione del male, questa figura. Io ho fatto delle ricerche poi dopo aver letto la tua storia, e a me la prima cosa che viene a domandarmi è: cos'è successo a questo essere umano perché diventasse così? È una domanda che faccio a me, non la faccio a te, perché poi in realtà so che, come dire, tu c'hai poco a che fare, ci avrai avuto poco a che fare al di là delle ricerche che sono state fatte, però voi in famiglia vi siete dati una risposta, avete capito ad esempio qual era il legame di amicizia tra Umberto e Luciano quando erano dei ragazzi? Beh, sicuramente erano amici perché andavano a scuola elementare insieme, poi erano dello stesso quartiere, per cui più o meno all'epoca si cresceva tutti insieme. E quindi sì, poi sapere quello che poi è successo dopo colpisce a tutti. E soprattutto poi leggere tutta la storia dopo, perché non è stata legata solo a quel periodo che poteva essere magari di confusione, è continuata per tutta la sua vita, insomma, quell'essere l'impersonalizzazione del male, insomma. E fino poi all'uccisione della compagna, sì. Insomma, è veramente una storia incredibile. Veniamo a noi, ad esempio, nelle lettere Umberto parla mai di questo tradimento dell'amico? Cioè lo realizza, lo capisce? Sì, in realtà sì, proprio nella prima lettera che scrive da Regina Celi, perché lui appunto pensava di andare a Milano grazie all'aiuto di questo Luberti per espatriare e sfuggire alle rastrellamenti, e lui si stupisce del perché lui è stato fermato e Luciano no, e quindi dice al fratello, che poi è mio nonno: ma prova a telefonare a casa sua e vedi che ti risponde, però se vedi che è stato lui, non fare niente, mi raccomando, perché è una persona pericolosa e rischi che ci rimetti anche tu. Mio nonno all'epoca viveva nascosto a casa della suocera insieme alla moglie e al figlio piccolo, che poi è mio padre, uh-huh. E quindi doveva stare attento anche a muoversi, non poteva quasi uscire di casa. Senti, ti spiace Lorenzo ricostruire un attimo la genealogia, giusto? Insomma, io faccio fatica con cognato, nuoro, eccetera eccetera, però in realtà non è così complicato. Sì, il protagonista della storia è Umberto Spizzichino, che è il fratello di Nando Spizzichino, Leonardo Spizzichino, che è mio nonno, padre di mio padre, che è Settimio Spizzichino, e okay. Gemma, che è la moglie di mio nonno, okay. È mia nonna, insomma, la madre di mio padre. E tra l'altro la voce che c'hai, grazie per avercela mandata, della donna che abbiamo sentito poco fa è la voce di Gemma, mia madre, che è tua madre. Coincidenza, si chiamano tutte e due Gemma, la suocera e la nuora, quindi mia madre e la madre di mio padre si chiamano Gemma, e quindi mia madre è rimasta particolarmente colpita da questa lettera indirizzata a questa Gemma, e quindi si è sentita in dovere di raccontare questa storia a noi e di farcela raccontare a più persone possibili. Tu senti che la tua famiglia, addirittura il tuo essere un essere umano, si porta dentro questa cosa del parente stretto che fa parte di questa pagina così macabra della storia dell'umanità? Guarda, in realtà tutta la parte di mio padre, fino ai fine anni Ottanta, non ne hanno mai parlato, se era possibile questa cosa, quasi si vergognavano di parlarne, mentre invece mia madre, appena l'ha saputa, ha cominciato appunto a chiedere informazioni, ne parlava appunto non Quindi con è stata mio lei mondo. A cercare di scavare? Sì, e aiutata dalla suocera, insomma, dall'altra Gemma, che ne parlava molto di più rispetto a mio nonno, che era il fratello, insomma. E oramai tra la nostra cerchia di amici, quando è la giornata della memoria, il 27 gennaio, tutti quanti dicono: quando è che ci raccontate di nuovo questa storia, ce la mandate in giro via WhatsApp o via mail? Ecco, perché infatti volevo chiedertelo, in che modo per il giorno della memoria voi ricordate la storia di Umberto cercate di renderla pubblica? Sì, in realtà noi tutti tra gli amici cerchiamo di usare i social adesso, le mail prima, per ricordarlo ai nostri amici, e poi fortunatamente, insomma, ogni tanto ha un eco un po' più grande, tant'è che siamo riusciti l'anno scorso a far mettere una pietra d'inciampo davanti alla casa dove vive Umberto, e quindi abbiamo fatto una piccola iniziativa sia lì sul posto, che sono con tutti gli amici nostri e le persone che l'avevano saputo, per la posa di questa pietra, e poi abbiamo fatto anche un'altra. I miei fratelli sono andati a parlare nelle scuole dei figli, e io ho organizzato un incontro in una bottega del commercio Questo Vitale, dove faccio il volontario, e insomma cerchiamo di mantenere viva la memoria, perché insomma è fondamentale in questi periodi. Per chi non lo sapesse, le pietre d'inciampo sono quelle piccole mattonelle che vengono poste davanti alle case, in che materiale sono fatti, Lorenzo? In ottone? In ottone. Che vengono poste proprio davanti ai portoni delle persone, degli ebrei che sono stati presi e portati via e sono morti nei campi di concentramento. Senti Lorenzo, io starei davvero ore a raccontare e chiederti delle cose, devo salutarti, però volevo semplicemente chiudere chiedendoti, voi siete una famiglia della tradizione ebraica romana, se non capisco male. In realtà per niente, mio nonno, il fratello di Umberto, si è sposato con il rito cattolico, una cattolica, ha battezzato mio padre, e noi non abbiamo mai seguito in realtà nessun rito, nessuna tradizione cattolica, ebrea, però siamo molto legati a questo essere di origine ebraica, insomma siamo orgogliosi di avere questo cognome e ci piace insomma il fatto di dover difendere quello che è successo agli ebrei anche da non ebrei praticanti, insomma. Certo, sì, perché ha a che fare con l'essere umano, non semplicemente con le religioni. Lorenzo, ti ringrazio davvero tantissimo per la storia e la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto e a presto. Ciao, grazie. Ciao. Shadowed in history, shattered in pain, over the lengths that I stay up late, but brought to my space the wonderful things I've learned to waste. I should have known that I shouldn't hide, to compromise and to cover all what's inside. There is no desire, you have to decide. Queste sono storie davvero potentissime nel bene e nel male, nel loro essere così crude e nel raccontare però anche dei pezzi di umanità, dei pezzi di vita familiare, come abbiamo sentito fare magnificamente da Lorenzo. A lui e a tutti loro vanno i nostri migliori auguri. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Non l'ho ucciso per la sua personalità o per il tipo di uomo che era, ma perché era molto molto famoso. È stato un atto egoista di autocelebrazione e mi dispiace per il dolore che ho causato. Ci penso sempre. Con queste parole l'assassino di John Lennon, Mark Chapman, 2 mesi fa ha chiesto scusa alla vedova Yoko Ono, a 40 anni dall'omicidio del leader dei Beatles e dopo che per l'11ª volta gli era stata negata la libertà condizionata. Oggi, esattamente 40 anni fa, cioè l'8 dicembre del 1980, John Lennon veniva ucciso da un suo fan che si chiamava e si chiama Mark Chapman. In questa puntata che si intitola Io mi fidavo, la prossima storia è proprio la sua, quella di Mark Chapman. L'abbiamo letta su Rolling Stone, firmata da Fabio De Otto. State con noi. Ogni 2 anni Yoko Ono spedisce la stessa identica lettera. Il destinatario è la New York State Division of Parole. Il contenuto? Un appello. Non liberate l'assassino di mio marito. E ogni 2 anni, dal 2000 ad oggi, la Division of Parole nega la libertà condizionale a Mark David Chapman. L'ultima volta, lo scorso 30 agosto, con questa motivazione. Il suo rilascio andrebbe a sminuire la gravità del crimine compiuto e scoraggerebbe il rispetto delle leggi. A 36 anni dal suo arresto, la figura di Chapman ancora riesce a dividere l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi lo considera un fan svitato che ha portato lo stalking alle estreme conseguenze. Dall'altra, chi si sforza di dipingerlo come uno dei tanti criminali che, lungo la strada della redenzione, hanno scoperto il balsamo infallibile della religione. In realtà, basta grattare un po' la superficie per scoprire una storia più complessa. Tanto per cominciare, la religione è sempre stata un'ossessione per Chapman, e John Lennon non era l'unico bersaglio della sua lista. Era semplicemente il più noto e il più facile da raggiungere. I had Sean and I just knew immediately that it was very important to protect Sean. Mm-hmm. Should Mark David Chapman be forgiven? I know that the Pope. Lei è Yoko Ono, che in un'intervista dice che Papa Wojtyla ha perdonato l'uomo che aveva cercato di ucciderlo, ma io non sono il Papa, conclude. Mark David Chapman nasce nel 1955 a Fort Worth, in Texas. Il padre è un sergente della Air Force, la madre è un'infermiera, e nella quotidianità si scambiano più insulti che parole. L'adolescenza di Mark si divide tra casa e scuola. A casa passa lunghe ore chiuse in camera, in una sorta di mondo nascondiglio dai litigi familiari, in cui si immagina sovrano di un popolo di piccole creature che abitano nelle pareti della sua stanza. A scuola invece viene regolarmente bullizzato, perciò spesso nemmeno si presenta in classe. Nel tempo libero sperimenta le prime droghe e strimpella sulla chitarra le canzoni dei Beatles, per i quali nutre una vera e propria adorazione. Il copione è arcinoto: padre violento, adolescenza tormentata, emarginazione scolastica, nevrosi, eccetera. Alla soglia degli anni 70 però le cose cominciano a cambiare. Mark ha 16 anni e si è appena convertito al presbiterianesimo. I Beatles si sono sciolti e John Lennon, agli occhi del giovane, comincia a trasformarsi da idolo indiscutibile a pericoloso blasfemo. Più avanti Chapman rivelerà di non avere mai perdonato a Lennon di avere sostenuto che i Beatles fossero ormai più popolari di Gesù. Nell'estate del 71 Chapman trova lavoro come istruttore nel campo estivo della YMCA e scopre di essere bravo a lavorare con i bambini. Ci si dedica con impegno e viene puntualmente ricoperto di elogi da colleghi e superiori. È in questo periodo che conosce la sua prima ragazza, si chiama Jessica Blakenfield. Finito il liceo, i due decidono di iscriversi insieme al Covenant, un college evangelico in Georgia, ma nel giro di poco Mark la tradisce e il senso di colpa lo trascina nella prima di una lunga serie di spirali ossessive. La storia tra i due finisce e Chapman comincia a pensare seriamente al suicidio. Dopo aver lasciato una serie di lavori insoddisfacenti, nel 77 attacca un tubo di gomma alla marmitta della sua auto e tenta l'avvelenamento da monossido di carbonio. Il tubo però si scioglie e il tentato suicidio fallisce. In seguito a questo episodio gli viene diagnosticata una depressione clinica e dopo un breve periodo di ricovero psichiatrico torna a vivere alle Hawaii con la madre, dove si procura un lavoro come guardia giurata. Il comportamento di Chapman tra il 77 e l'80 è preoccupante, ma non abbastanza da indurre le persone che gli stanno accanto a intervenire. Le sue scelte di vita sembrano un prodotto diretto delle sue ossessioni. Dopo aver letto Il giro del mondo in 80 giorni, parte per un viaggio di 6 settimane in cui visita Giappone, India, Inghilterra, Francia e in cui conosce quella che, nel giugno del 79, diventerà sua moglie. Ma i suoi veri chiodi fissi sono il giovane Holden di Salinger e naturalmente i Beatles. Quando nell'autunno dell'80 Mark comincia a pianificare l'assassinio, è ormai fuori controllo. Da tempo beve in maniera smodata e ha lasciato il suo lavoro di guardia giurata, firmandosi sul foglio di dimissioni come John Lennon. Nella sua follia ossessiva, Chapman è convinto di essere l'equivalente moderno di Holden Caulfield, un ragazzo animato da un'urgenza purificatrice, pronto a dichiarare guerra a tutti gli ipocriti, soprattutto chi osa cantare di un mondo senza proprietà privata, quando in realtà Possiede uno yacht, dice, delle case e milioni di dollari ottenuto vendendo dischi ai fan che credono alle sue bugie. Chapman ha fatto una lista in cui figurano altri supposti ipocriti come Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Jimmy Carson e Jacqueline Onassis. Ma alla fine la scelta ricade su John Lennon, l'uomo che ha rinnegato Gesù, l'uomo che ha rinnegato i Beatles. Nell'ottobre dell'80 un ragazzo di 25 anni, con la fedina penale pulita, si trasferisce a New York con l'intento di uccidere la rockstar più famosa al mondo. Passeranno 2 mesi prima che il suo piano sia pronto. Nel frattempo Mark sembra tormentato dal dubbio. Ha raccontato alla moglie di avere comprato una pistola e di voler uccidere Lennon. Lei ha cercato di dissuaderlo e l'ha convinto a vedere uno psicologo. Purtroppo però Chapman non raggiungerà mai il lettino del dottore. Il 7 dicembre del 1980 il cantautore James Taylor è alla fermata della 72esima quando viene avvicinato da un ragazzo sudato, visibilmente alterato, che comincia a sprolocchiare su Lennon e su alcuni grammi di cocaina che, per qualche ragione, avrebbe regalato a un tassista. La mattina del giorno seguente Chapman è davanti all'ingresso del Dakota Building, passa tutta la giornata a presidiare l'ingresso, parla coi fan, a un certo punto riesce a intercettare la governante e il piccolo Sean Lennon, il figlio, gli stringe la mano. Quando alle 5 John e Yoko Ono escono per una sessione di registrazioni, arriva addirittura a farsi fare un autografo dalla sua futura vittima. Nelle ore successive Chapman rimane a macerare nel dubbio. Una parte di lui adora Lennon, l'altra lo odia. Quando la coppia ritorna a casa, alle 22.50 di quella sera, le voci nella sua testa hanno raggiunto un verdetto. Lennon deve morire. Chapman aspetta che John e Yoko imbocchino l'ingresso del Dakota Building, estrae la sua 38 mm ed esplode 5 colpi. Pochi minuti dopo, mentre aspetta che lo vengano ad arrestare, apre una copia del giovane Holden e comincia a sfogliarla. Central Park, New York, ore 22.50 dell'8 dicembre 1980. Una guardia giurata che viveva alle Hawaii, Mark David Chapman, uccide con 5 colpi di pistola John Lennon. Con lui colpisce al cuore l'utopia di Imagine, il sogno di un mondo senza violenza, un mondo di peace and love. Chapman aveva deciso di uccidere il suo mito perché non riusciva ad essere come lui. «Mr. Lennon, sta per entrare nella storia!» gridò Chapman prima di far fuoco. Nei mesi successivi gli psichiatri fanno a gara a certificare l'infermità mentale del ragazzo. Qualcuno sostiene che sia un maniaco depressivo, altri che soffre di schizofrenia paranoide e di disturbi della personalità. Sarà lo stesso Chapman, alla fine, a dichiararsi colpevole. È una scelta inattesa e i cospirazionisti ci vanno a nozze. Comincia a girare la voce che Chapman non sia altro che un fantoccio a cui la CIA e l'FBI hanno fatto il lavaggio del cervello. Ma la teoria più strampalata vuole che a premere il grilletto davanti al Dakota Building sia stato Stephen King. Oggi Mark Chapman ha 60 anni e almeno altri 2 li dovrà passare dietro le sbarre dell'istituto penitenziario di Wendy ad Holden, New York, dove riceve periodicamente visite dalla moglie Gloria. Dagli anni 90 lavora come volontario nella prigione e si rifiuta di rilasciare interviste nel tentativo di convincere la Commissione per la Libertà Vigilata di non essere più il mitomane in cerca di visibilità che 40 anni fa ha cambiato la storia della musica. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. Nothing Questa storia molto precisa, financo nei dettagli, l'abbiamo letta su Rolling Stone, a firma di Fabio De Otto, si intitolava il pezzo La storia di Mark Chapman, l'assassino di John Lennon. L'abbiamo voluto raccontarvela oggi in questa giornata che ricorda quel giorno preciso in cui, come dice Fabio De Otto, la star più importante della musica dell'epoca veniva ucciso, e quell'uccisione è stata una linea d'ombra per la sua vita, per la vita dei suoi fan e probabilmente per la storia di tutta la musica moderna e contemporanea. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare a linee d'ombra la storia di Antonio Cocco. Linee d'ombra. Devo dire che finalmente, quasi con un certo sollievo, cominciamo a scoprire il lato ragazzo di Antonio Cocco, quel diciottenne che è scappato da Venezia e che da quando lo seguiamo, da quando leggiamo le lettere che ha inviato al padre e da quando sentiamo le testimonianze che Mauro Pescio ha raccolto, lo vediamo solo come un giovane uomo disperato per quello che ha fatto, per essere scappato da casa ed essere finito nella legione straniera e nel giro di pochi mesi drammaticamente in una guerra in Indocina. Ecco, qui cominciamo a scoprire il lato invece di un ragazzo di 18 anni che sta visitando il mondo, sta scoprendo il mondo. Si trova in Indocina, che era un luogo che negli anni 50 raggiungevi probabilmente se eri o un pioniere o un militare, appunto, o un soldato, e scopre delle cose che racconta con un entusiasmo che non sembra suo, considerato quello che gli sta succedendo. Racconta del cibo che mangia, racconta delle visite in giro per Saigon, e io mi immagino che meraviglia potesse essere Saigon negli anni 50. Ebbene, lui ce la racconta a suo padre e noi la raccontiamo a voi. Una volta da noi cercherò di farmi imboscare. E se le probabilità di lasciarci la pellaccia saranno poche, farò 3 o 4 anni tra i cinesi, altrimenti tu mi farai in qualche maniera un passaporto, e quando mi daranno i 40 giorni di riposo, piglierò il volo. Soldi conto di averne, non molti, ma mi basteranno. Figurati, dopo quello che avrò passato qua giù, se saranno capaci di fermarmi. Tuttavia di questo ne avremo agio a parlarne. La mia paga è di 1.100 piastre al mese, cioè 17.000 franchi. I soldi glieli depositavano sul conto, per cui potrebbe essere che fossero delle delle monete da usare nel campo, in caserma, per farsi dare soldi vietnamiti da spendere poi in loco. Nel senso che i franchi francesi gli venivano depositati in Francia, probabilmente gli detraevano quelle spese che avevano, le spese e i soldi che lui chiedeva, per cui può darsi che fosse così, è una supposizione, che fosse una sorta di moneta convenzionale dentro la caserma, nei cosi. Ogni mese conto di spenderne 5 o 600, in modo che in caso di disgrazia potrete averli voi. Sono pochi, ma mi basteranno. A proposito di soldi, a Saigon ci hanno dato 600 piastre e quartiere libero per tutta la notte. Lasciamo perdere. Alla fine del mese si è trovato senza soldi, perché quello era un anticipo. Loro credevano di avere, li hanno spesi come pazzi. Credo che abbia fatto dei punti proprio alla fine di quella giornata. E dopo, la volta dopo, quando dovevano dargli il stipendio, se lo sono tenuto. Ne hanno fatti di tutti i colori. Alcol e prostitute? Possibile, è molto possibile. Tieni presente che, per esempio, a Dien Bien Phu c'erano donne. Chi erano le donne di Dien Bien Phu? Due donne famose, no? Perché una era la Brigitte Friang, che era una militante della resistenza al nazismo, che era stata catturata dalla Gestapo, internata e poi è stata inviata di guerra e scrittrice. E lei era stata paracadutata nella zona di Dien Bien Phu, si era fatta paracadutare nella zona di Dien Bien Phu. Poi c'era la Geneviève de Galard, che era la Croce Rossina, una ricca, era figlia di una famiglia ricca, famiglia aristocratica infermiera, si arruolò come infermiera volontaria nell'aviazione francese e su sua richiesta fu assegnata all'Indocina. Ecco, a parte queste due donne, come dire, famose cose. E poi le altre erano prostitute nordafricane e vietnamite che avevano portato a seguito la regione, così come ovunque. L'estremo Oriente è meraviglioso. Non saprei proprio come descrivertelo. Sono certo però che quello che avrete letto non ha potuto farvi un'idea. bisogna esserci per dire, o meglio sapere, che cosa sia. Pensa che per visitare Saigon, che ha più di 1 milione di abitanti, siamo montati sui pus-pus, che sono dei rickshaw trascinati da un motorino, e ci abbiamo impiegato 4 o 5 ore con gli indocinesi che facevano acrobazie per farli correre. Abbiamo cenato nel miglior albergo con il vino Bardolino, liquori, pasta asciutta all'italiana. Ho pure assaggiato la zuppa del luogo, fa una puzza terribile ma è molto gustosa. Ci è costata cara però. Io quando sono rientrato avevo 100 piastre di debito. Facendo un conto approssimato sono più di 20.000 lire italiane. Non c'è male, no? In una sera. Ti scriverò ancora da Aipon. Ti abbraccio e ti bacio. Tony. Ricordo che se volete per caso saperne di più della storia, oltre a riascoltarla sul nostro sito, sui nostri podcast, abbiamo la versione short, quella breve, con tutte quante le infilate della storia di Antonio Cocco. Vi ricordo, vi dicevo, che se volete potete anche leggervi il libro che è stato pubblicato La Terra di Mezzo e si intitola La Ridotta Isabel, che racconta proprio la storia di Antonio Cocco attraverso le sue lettere. Ringrazio Mauro Pescio che la raccoglie, ringrazio tutti quelli che fanno questo programma, che sono oltre a lui Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni. Ora lasciamo la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!